Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a quest'ennesima puntata di Fumetti Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi è andato a trovare Claudio Onesti, detto Claude, uno dei più importanti creatori di fumetti ed illustratori italiani, che col Pioniere ha molti punti di contatto, alcune pure coincidenze, più singolari, altri invece di sostanza. Pure coincidenze ma singolari, per esempio la sua omonimia con Clario Onesti, che era un famoso illustratore del Pioniere, a cui si aggiunge la mamma di Claude, che si chiama Dina Rinaldi, come la stessa direttrice del Pioniere, ed entrambe sono state partigiane. Ma anche punti di sostanza, come il giovane Claude Onesti che leggeva da piccolo il Pioniere, e oggi ne è collezionista, e il Claude Onesti, già noto fumettista, collaboratore di Pif Gadget, che era omologo comunista e lo stesso Pioniere. Quindi, con l'intervista di Morena Moretti, ricostruiamo questa figura di Claude Onesti. Al secolo Claudio Onesti, trattore del fumetto, non solo italiano naturalmente, più che altro fumettista, cioè fumettista. Non, anche illustratore ma soprattutto fumettista. Quindi il termine giusto è fumettista. Sì, sì. Io partirei dalla tua quasi omonimia, se si può dire quasi omonimia perché forse no, con Clario Onesti, sì, che anche lui... Sì, Onesti, che poi Clario Onesti... Che... Pittore, incisore e un grande illustratore, anche lui, grande fumettista, possiamo dirlo, che ha lavorato molto nella sua carriera al Pioniere con la direzione di Rodari, poi della Dina Rinaldi. Allora io volevo chiedere a te se questo Clario Onesti, che poi fa il tuo stesso lavoro, si è incrociato con te in qualche modo, la sua figura si è incrociata con te, l'hai incontrato? Non l'ho mai incontrato. Innanzitutto io devo prima, voglio dire prima una cosa, che io fin da bambino, fin dall'elementare, il fumetto ce l'avevo addosso, cioè mi piaceva e disegnavo. Io in terza elementare già disegnavo Paperino Topolino piccolo, alla lavagna a memoria, alla maniera di un bambino però chiaramente, però tutto a memoria, i miei compagni, come fai? Sergioso, no? Era un mostro. Sembrava una dote naturale. Sì, sì, no, è chiaro, cioè, ma io da qualsiasi parte trovassi la possibilità di disegnare un vetro appannato, una superficie polverosa, così, cioè sempre anche con le dita disegnare, poi ho avuto mia mamma, che devo dire grande donna, poi dirò anche dopo altre cose su di lei, al contrario di tutti i miei coetanei che avevano la loro lavagnetta così nera, con i gessetti, una bagnetta che forse era nel migliore dei casi tipo una 4 come dimensioni, cioè. Mia mamma invece cosa faceva? Con i gessi mi permetteva di disegnare per terra, siccome era una vecchia casa dove c'era il mattone per terra, proprio la pietra. Il mattone rosso. Il mattone rosso, esatto, così. Lei mi diceva, mettiti nel corridoio, non farlo sui muri, tu disegna lì, un corridoio di 5 metri e mezzo per un metro e mezzo, poi fa, però poi dopo devo lavarci sul pavimento, cioè, non piangere, poi si va per il cancello. È stata una goduria, cioè, ci sono dei grandi artisti che dipingono i soffitti, io dipingo i pavimenti, parto dal basso. Però ti è stato, questa presa alla base ti è stata molto utile, perché poi... Alla grande, è il caso di dirlo, proprio alla grande. Grande, cioè, perché io non ho dovuto fare disegnini piccolini e poi cancellare, cioè io avevo una superficie immane proprio, cioè così mi sono veramente divertito. Grande mamma, invidiatissimo dei miei coetanei, perché le loro mamme invece li massacravano tutto, le loro massacrate, se loro avessero usato anche solo fare una virgola sul pavimento, anche loro di pietra, però io ecco come inizio ho avuto questo questa cosa qui che mi ha aiutato parecchio. Poi dopo, vabbè, dopo ho avuto la possibilità di conoscere quella che era una realtà modenese, la Pau Film, quello che c'è una casa di produzione che faceva cartoni animati, e la Pau Film, la pro di Paul Campani, che è il carosellaio che faceva L'omino coi baffi, Angelino, Totte sì. Tata, Miguel Sommi, per dirne alcuni. Ma tu la tua carriera comunque è iniziata veramente da giovanissimo, quasi da bambino, perché almeno no, carriera, nella tua storia di fumettista, sì, diciamo, perché già nel 74 leggo nella tua biografia che già la disegnavi, appunto, collaboravi con Bonvi. Io ho cominciato, io so esattamente il giorno, perché era il giorno dopo del congedo, quindi il mi sono congedato il 3 settembre del 70 e ero già d'accordo con Bonvi che il giorno dopo sarei dovuto andare a fargli vedere i miei lavori. Quindi sono andato là il 4 e lui mi ha detto: bene, domani se vuoi venire puoi cominciare. Io praticamente ho cominciato a lavorare professionalmente, chiamiamolo così, cioè essere pagato per i lavori che facevo, il 5 settembre del 1970 da Bonvi. Stiamo parlando del congedo militare, immagino. Due giorni dopo il congedo, perché il giorno dopo sono andato a portargli i miei disegni, che è stata una scena quella lì, che se uno, delle volte la racconto, se uno adesso mi viene a far vedere un esordiente, mi viene a far vedere i propri lavori, insomma, che sì. Sospetto che porti, non so, tre dita di fogli, di disegni, di quello che fa. Io, quando ho conosciuto Bonvi, un mese prima del congedo, che mi disse: bene, porta a farmi vedere quello che fai, io quel mese l'ho passato a militare, a disegnare e a buttare via, a scartare, a scremare, una cosa. Giuro, sono andato da Bonvi con quattro disegnini grandi, ce li ho ancora quelli, c'erano stati, non so, 7x7, no? Che erano quattro personaggini che avevo inventato io, e due scenografie che sono state più piccole di metà di una 4, ancora più piccole. Però evidentemente Bonvi ha colto comunque che c'era il testo del genio. Tutto questo che mi butta giù dalle scale, fortuna eravamo al primo piano, così. Fatto presto, perché ho fatto solo quei sei disegnini lì, guardato, fa bene, domani se vuoi cominciare. E quando poi, tempo dopo, con la confidenza che dopo, gli ho chiesto: ma dimmi una cosa, ma cosa ti ha fatto decidere, perché col poco lavoro che ti ho portato, come disegnavi le mani? Perché le mani sono una delle poche cose, una delle cose anche più difficili da disegnare, perché hanno tentacoli, cioè le dita, no? Così, tutte le varie posizioni sono difficilissime da disegnare. Tu le disegnavi, fa chiaro, cioè c'era da lavorarci sopra, però tu avevi già, ho visto che nel caso di lo avevi la mano. La casetta in trincea, po po po, anche se viene diarrea, respirando in apnea, per non tradire nostra idea, in der Funkenfunk, Achtung, dentro in der Kaken marciamo, po po po, ma i ciuffati ci pogliamo, poi in battaglione partiamo. Andiamo invece a questa parte del Pioniere. Tu sei stato anche un lettore del Pioniere. Sì. Io proprio, siccome in casa mia si leggeva Satà, e quindi la portavano alla domenica mattina fino su al quarto piano, ce la portavano in casa perché c'era la vendita porta a porta. Certo, volte, sì. Il giornale di così. Io devo dire che, purtroppo lo dico dopo, perché da professionista, purtroppo non sono mai riuscito a leggere il Vittorioso e il Corriere dei Piccoli allora, perché erano gli altri due giornali simili, ma delle altre fazioni politiche, perché uno era dell'Avvenire d'Italia, il Vittorioso, e l'altro era il Corriere della Sera, sì. Cioè praticamente c'erano le altre due fazioni. Sì, c'era un'area cattolica che... Sì. E questo, mica che mi dispiacesse, il Pioniere, perché anzi, alla grande. A quell'epoca, negli anni 60, era l'inserto dell'Unità. No, ma io lo leggevo anche prima. Quindi tu leggevi negli anni 50, quando il giornalino era pubblicato in autonomia, ed era anche pronto. Ancora c'era di Gianni Rodari, i primi anni, che però io guardavo forse le figure, forse, perché forse ero ancora poco più di un feto quando lui era dal 50, sì, dal 50 al 50. Ero poco più di un feto. E poi lo scomunicarono, ti ricordi? Sì, certo, sì, lo so. E poi divenne la direttrice di Rinaldi, ragazza, che appunto anche qui c'è un'altra bella storia, bellissima coincidenza. Io sul Pioniere esisteva un disegnatore bravissimo, disegnatore illustratore, fumettista e illustratore, che si chiamava Onesti, Flavio Onesti. Sì. No. però sopra c'era sempre scritto C Onesti, quindi io non sapevo il nome, però io lo interpretavo come Claudio Onesti e facevo. Ma quindi questo ti ha stimolato, cioè l'idea che ci fosse questo C Onesti, che è praticamente il tuo nome, ti ha... Mi ha stuzzicato, più che stimolato, un po', sì. Perché io devo dire che inizialmente io più che fumettista io sono nato prima come animatore, io proprio volevo fare cartoni animati, sinceramente, se devo essere sincero, proprio io volevo fare cartoni animati, perciò anche se disegnavo Paperino, Topolino, quelle cose lì, tanto che io ho fatto il primo cartone animato mio poi nel senso prove di animazioni filmate a 13 anni, 14, filmate proprio a colori, mio amico mi aveva ce ne preso la ripresa, una cosa che sono, cioè, emozionante la cosa, cioè, a 13 anni, così per i fatti miei, ecco, però solo dopo sono passato al fumetto, quando poi ho conosciuto Bonvi, sapendo sì. Quello, dopo sono passato al fumetto, così, ma prima io volevo fare l'animatore, il cartone animato, però questo il pioniere, i disegni, così, li ho sempre fatti, è ovvio che questo mi faceva, era stimolante, erano tutti segnali, erano tutti degli input a disegnare, a copiare, anche la narrazione, perché poi se copi una storia, non il disegnino, ma copi una pagina intera, impari anche la sequenzialità, cioè a raccontare, a fare il regista, diciamo così. Ma si può dire che tu sei comunque un autodidatta, come poi lo erano forse tutti nei tuoi anni, perché non c'era la scuola, la famosa scuola di fumetto. Non c'era mica le scuole di fumetto. Ecco, ma c'era qualcosa internet. Che poteva essere analogo, per esempio la scuola di cinematografia poteva in questo caso aiutare a diventare dei fumettisti, secondo te? Modena era molto provinciale allora, devo dire. Poi mi ricordo che mi ero informato anche della scuola di cartoni animati, che allora c'era solo a Urbino, che era già università, ed era a Urbino, siccome sì, condizioni economiche non ci permettevano, quindi, non mi permettevano di poter andare giù, vivere giù, studiare giù, così. Quindi, certo, diciamo che i fumettisti della tua generazione, come di quella tutta la generazione precedente, erano sicuramente autodidatti, insomma. Cioè, allora non c'era internet, non c'era il computer, no. Non c'erano corsi di fumetto. Non c'erano manuali soprattutto, perché adesso trovi manuali da tutte le parti, ne trovi dappertutto, sia su internet che anche in libreria, anche in mesticheria, su quei fascicoli, come disegnare le rose, come disegnare le formiche che ridono, come disegnare il muro al tramonto, cioè c'hai tutti i vari manuali in 15-20 pagine, che ti danno non c'era niente di quello, facciamo proprio noi. Allora si faceva o da soli e poi se avevi la fortuna, come ho avuto io, di andare a bottega da un professionista, è chiaro che ti dava poi delle dritte e ti insegnava. Io ho avuto la fortuna che, contrariamente a tanti altri che andavano a bottega, che casomai i primi tempi o per un po' di tempo non venivano pagati perché dovevano imparare il mestiere, io quando andai da Bonvi, che c'era già Silver da alcuni mesi, Silver quello di Alberto, sì. Era già a bottega da Bonvi da 3-4 mesi prima di me, noi però abbiamo cominciato a lavorare subito, ci ha pagato subito, non era tanto, però non era gratis. E tu, Bonvi per te è stato, tu ti consideri allievo di Bonvi? Io mi considero allievo di Bonvi, per il fumetto sono allievo di Bonvi, infatti io e Silver siamo i suoi due collaboratori storici, certo. Proprio, tanto che io quando Bonvi poi è morto, che ebbe quell'incidente, io per un tot di tempo ho continuato le Stuntruppen. Sì. Le ho disegnate, per i primi tempi le scriveva Leo Ortolani, quello di Rachman, per intenderci. Poi dopo lui smise perché aveva altri impegni, dopo le continuai io anche come sceneggiature. Ebbene sì, maledetto Kertész, hai vinto anche stavolta. Quindi tu hai fatto anche la parte d'autore. Sì, anche se non viene mai nominata questa cosa. Cioè, ma hai fatto anche altre cose come autore? Sì, ho lavorato per diversi anni anche per il Guerriero Sportivo, dove scrivevo testi, facevo fumetti dove scrivevo testi e facevo anche fumetti, insomma, disegnavo testi e disegni. Anche perché poi c'è un momento nella vita di un fumettista in cui uno vuole anche raccontare delle proprie storie. Sì, è chiaro che se uno riesce all'inizio parti che ti fai le tue storie, così. Io il primo fumetto che ho fatto così per i fatti miei, no, quando volevo ancora fare l'animatore di cartoni animati, ho comunque fatto fumetti, poco ambizioso, avevo cominciato a fare a fumetti la Divina Commedia. Un'impresa non piccola. Sono arrivato al quinto canto però, E però scrivevo la pagina di volta in volta, non è che scrivessi la sceneggiatura di un canto, facessi la traduzione, la riduzione, cioè di pagina in pagina scrivevo quella dopo, cioè che era poi quella che era, insomma. Beh, comunque Claude hai ancora tempo per finirla, non è che hai rinunciato al progetto. No, dopo mi sono stato bruciato, perché io cosa ho fatto? Io l'ho fatto fino al quinto canto. E poi dopo c'è stato, l'anno dopo dovevo studiare, così durante l'anno, che facevo durante l'estate quelle lì, l'anno dopo ho fatto per prenderla, per ricominciare il sesto, e ho visto che quelle cose che avevo fatto erano abbastanza discutibili, insomma, buon segno, vuol dire che ero migliorato, l'ho ricominciata di nuovo, cioè però ogni volta facevo meno, la terza volta ho fatto solo la prima pagina, poi l'anno dopo ancora ho visto che era uscito un giornale che si chiamava Offside, no? Un giornale di fumetti edito dalla Comic Art di Roma, dove sopra c'erano i disegni di Bomi che io ancora non conoscevo personalmente, però c'era un altro mio collega di Livorno che non conoscevo, che si chiama ancora Marcello Tominelli, con delle strisce sulla Divina Commedia intitolate Dante, che lui poi ha pubblicate già, poi lui ha già finita tutta la Divina Commedia, Inferno, Purgatorio, Paradiso, ha fatto anche tanti altri poemi, proprio l'Iliade, l'Odissea, l'Enneide, insomma lui è andato avanti a strisce dei poemi proprio, quindi mi ha fregato sul tempo, glielo ho detto quando l'ho conosciuto, che abbiamo anche lavorato insieme fra l'altro, abbiamo fatto Geronimo Stilton insieme a lui. Lui ha scritto i testi e i disegni di un volume di Giovanni Mostri. E siamo giunti così alla fine della trasmissione. Capo, ci facciamo la solita cantata finale. Io vado pazzo per il valzer. Il finalino? Lo faccio io! Eccomi qua. Mi chiamo Giumbolo, Giugiumbolo, Giugiumbolo. Io sono felice sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io pallonzolo, pallonzolo, poi gongolo e rigongolo. La notte e il dì. Mi chiamo Giumbolo, Giugiumbolo, Giugiumbolo. Io sempre rido quando dondolo e ridondolo. Ma se girondolo io giondolo e rigiondolo, poi gongolo e rigongolo. La notte e il dì. E quando gongolo lo lo divento il simbolo lo lo di tutto quello lo lo lo che gioia dà. E quando gongolo lo lo divento il simbolo lo lo di tutto quello lo lo lo che gioia dà. Mi chiamo Giumbolo, Giugiumbolo, Giugiumbolo. Io son felice sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io ballonzolo, ballonzolo, poi gongolo e rigongolo la notte e il dì. Seconda parte della trasmissione, torniamo ai manga giapponesi, in particolare a un capolavoro, quello di Miyamoto Musashi. Questo eroe, l'ultimo dei samurai, legato a questa ideologia belligerante, eroica, dove l'unica legge è la propria spada, con un pensiero del tutto regressivo che viene riscattato da una magnifica illustrazione. Di questo caposaldo della letteratura fumetti giapponese ce ne parla Dario Pensabene. Ascoltiamo. Il mondo dei manga è ampio e complesso. Esistono gli shonen, esistono gli shoujo, e poi esiste un particolare genere di manga, quello storico, che se trattato dal giusto mangaka e interpretato con le giuste nozioni trasferite al lettore attraverso massime, disegni, dialoghi, riesce a far nascere nel lettore la voglia di apprendere di più rispetto ad un periodo storico che può essere passato, un'analisi più attenta al periodo attuale. In questo caso, con Miyamoto Musashi, torniamo indietro, ma di tanti secoli, nel Giappone feudale, all'epoca dei samurai, degli spadaccini, all'epoca della filosofia orientale che oggi va tanto di moda e che tutt'oggi è in grado di regalarci perle di saggezza ineguagliabili, raccontate attraverso la narrazione di uno dei più grandi mangaka degli anni 40, 50 e successivamente fino alla sua morte, avvenuta nel 1998 all' età di 60 anni. Sto parlando chiaramente di Shotaro Ishinomori, un mangaka che ha creato, tra le altre cose, saghe incredibili come Cyborg 009, Ryu, ragazzo delle caverne, Kamen Rider, che gli spettatori più grandi sicuramente ricorderanno essere diventati anime famosissimi per la loro infanzia. Bene, Miyamoto Musashi sa mischiare sapientemente filosofia e narrazione, massime e spiegazioni, dialoghi, ritagli, affreschi di un periodo definitivamente andato, di una casta, quella dei samurai, che da lì a poco sarebbe destinata al declino, ai cosiddetti Ronin, ma soprattutto narra la storia di questo straordinario personaggio che voleva diventare lo spadaccino più forte di tutti. Il volume, edito dalla J-Pop, si presenta di grande formato al costo di 15 euro e vanta più di 400 pagine. È un volume che dal mio punto di vista dovrebbe essere presente in ogni libreria di un collezionista, al di là della preferenza di un genere piuttosto che per un altro. Con questo volume Shotaro Ishinomori regala al lettore una finestra molto ampia su quello che è il personaggio di Musashi e quindi un lottatore, uno spadaccino, un samurai che credeva fermamente nella via della spada, come si può credere fermamente in una religione, in una dottrina, in un ideale. Musashi aveva un solo scopo nella vita: vincere ogni duello, ogni sfida che gli veniva lanciata, perché la sua determinazione, la sua fede lo portava a credere tanto fermamente nella via della spada che solo attraverso la sconfitta dell'avversario lui avrebbe potuto elevare il suo animo e se stesso a qualcosa di diverso, ad una dimensione spirituale talmente elevata da poter trascendere la normale mentalità dell'uomo. All'interno del volume, con dei tratti tipicamente del suo creatore, Ishinomori riesce a regalare una bella storia, coinvolgente dall'inizio alla fine, in grado di raccontare al lettore, di coinvolgerlo, trasportandolo in una dimensione e in una logica di pensiero che ovviamente non può essere trovata in nessun altro manga, ad eccezione forse di un altro capolavoro, sto parlando di Vagabond. Ma torniamo a parlare di Yamamoto Musashi. Acquistare questo libro, oltre che a intrattenervi per tanto tempo, vi porterà sicuramente un arricchimento personale, perché entrerete in contatto con questo personaggio, con questo samurai che nella fase finale della sua vita, ritiratosi a vita strettamente privata, lo avrebbe portato a scrivere e a mettere nero su bianco tutti i suoi pensieri, la sua filosofia, e creare quindi quello che è un libro che tutt'oggi è disponibile per noi, che si chiama Il Libro dei Cinque Anelli, un condensato della filosofia di Musashi che avrebbe passato il suo tempo e avrebbe giovato al lettore di oggi portandogli le sue nozioni, i suoi pensieri, ma soprattutto portandogli l'essenza più pura di sé. Voglio concludere questo video dicendo che Miyamoto Musashi è un bellissimo album da possedere, da toccare, da leggere, ed è uno di quei pochi manga che alla fine vi ritroverete saltuariamente in alcuni momenti particolari della vostra vita, della vostra quotidianità, a riprendere anche solo per rileggere una semplice massima o un passaggio che vi ha colpito durante la lettura. Io ho riscoperto anche la lettura del libro dei Cinque Anelli, a dimostrazione del fatto che i fumetti, i manga, possono essere un legame unico e possono anche invitare il lettore a qualcosa di più, anche una volta completata la lettura. Storie, i fumetti guardati dal calendario. A cura di Gianluca Omigliacchi, della fumettoteca Alessandro Calegati, Calle. Valentina Melaverde. Oltre alla celebre eroina di Guido Crepax, c'è un'altra Valentina che, giustamente, merita di essere annoverata tra le icone indimenticabili del fumetto italiano. È Valentina Melaverde di Grazia Nidasio. La sua prima apparizione è sulle pagine del settimanale per ragazzi Corriere dei Piccoli, anno 1969, e questo porta ben 50 anni per Valentina Melaverde, alias Valentina Morandini, soprannominata Melaverde per l'età ancora acerba. Infatti il personaggio è una ragazzina milanese di 12-13 anni che frequenta le classi medie. Le sue giornate si dividono tra scuola, famiglia, che oltre ai genitori comprende il fratello maggiore Cesare e la sorellina Stefania, studio e divertimento con le amiche, senza contare gli imprevisti quotidiani a cui può andare incontro una ragazzina della sua età. Nei 7 anni di pubblicazione di Valentina Melaverde, Grazia Nidasio ha raccontato ai suoi giovani lettori i controversi anni 70, affrontando, di volta in volta, argomenti prettamente adolescenziali o modaioli, fino ai temi più scottanti come la crisi dell'economia, l'ecologia, la contestazione giovanile. Il tutto con molto acume e tantissima sensibilità che l'autrice era in grado di esprimere attraverso le tavole del suo fumetto. Le sue storie sono caratterizzate da un intento didattico e, molto spesso, si concludono con una sorta di riquadro in cui viene spiegato ai lettori l'insieme generale. I personaggi di queste storie erano tutti ben vestiti, si esprimevano in ottimo italiano, la buona educazione era ovunque, eppure non c'era nulla di conformista in queste storie. Erano scritte bene, allegre ma non stupide, leggere ma con contenuti profondi, e la stessa impaginazione era originale. Grazia Nidasio illustrava un mondo che non faceva paura o deprimeva, insegnando ai giovani ad essere se stessi coi propri pensieri, i propri sentimenti, le idee personali da difendere con convinzione ma, ovviamente, con rispetto al prossimo. Per essere nel 1969 non era poco. Grazia Nidasio è scomparsa il 25 dicembre del 2018. Valentina, tanto è lungo per parlare. Oh Valentina, è ogni ballo un grande amore. Cocca, puntati al bicocca, che ti dà con tutto il cuore. Oh Valentina,